Focus Economia. Buonasera da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. E quindi parliamo oggi di area OCSE, perché come avete probabilmente sentito anche dai nostri GR, arrivano dati confortanti dall'OCSE. Il terzo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo è cresciuto nell'area dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. L'Italia registra un più 0,6% rispetto al trimestre precedente, superiore sia alla media europea che alla media dell'area euro. Non è la prima volta in queste settimane che dall'OCSE arrivano segnali di ripresa incoraggianti per il nostro paese, ma che significato hanno poi per le piccole e medie imprese italiane? Questi segnali si riflettono anche in maggiori ordini e fatturato? Cercheremo di capirlo. Alle 18 circa invece daremo spazio alle diverse visioni di politica economica in seno al governo. Il ministro responsabile della pubblica amministrazione Renato Brunetta ha parlato in un'intervista di veti ciechi del responsabile dell'economia Giulio Tremonti. Il premier Silvio Berlusconi da Doha ha oggi tentato di spegnere l'incendio, ma sotto traccia rimane una diversa visione della linea da tenere in questa fase di uscita dalla crisi economica. Come ogni giorno si parlerà anche di mercati, inizio di settimana con il segno più per le borse in Europa e anche per Wall Street. E dall'America arriva un altro tema della puntata di oggi: i mutui americani. Nuove preoccupazioni arrivano da questo settore che ha già provocato quel terremoto finanziario che poi si è trasformato nella recessione che abbiamo appena attraversato. Di tutto questo parleremo tra poco, ma prima degli approfondimenti, le notizie di oggi in breve. In apertura le materie prime, il petrolio in particolare a New York ha aperto a 78-85 dollari a barile, in rialzo dell'1,8%. E per quanto riguarda sempre i temi petroliferi, l'Eni, le acquisizioni in Uganda per l'Eni, che ha firmato l'accordo per l'acquisto del 50% detenuto da Heritage nei blocchi 1 e 3A in Uganda per un ammontare pari a 1,35 miliardi di dollari. Contengono risorse per oltre un miliardo di barili di petrolio equivalente, di cui approssimativamente 700 milioni già scoperti da circa 28 pozzi perforati nell'area. E poi l'oro che oggi ha segnato già due record in mattinata. In Asia è volato a 1165,23 dollari l'oncia e poi in tarda mattinata un altro record a 1167,88 dollari a Londra. E dall'economia internazionale arrivano alcuni dati positivi per quanto riguarda il mercato immobiliare americano. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti a ottobre hanno segnato un balzo del 10,1% al tasso annualizzato di 6,10 milioni di unità, il livello più alto da febbraio 2007. Per quanto riguarda la crisi, ha parlato oggi il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn, ha detto: la tempesta è passata, il peggio è stato evitato, ma l'economia globale resta molto vulnerabile, soprattutto nei paesi avanzati, dove è ancora dipendente dal sostegno della politica. Lo ha detto oggi proprio il direttore generale dell'FMI. E proprio Strauss-Kahn resta preoccupato in particolare per la disoccupazione. La crescita economica è in ripresa, ma ci vorrà del tempo prima che anche l'occupazione la segua. È difficile, ha detto, sostenere che la crisi è passata quando la disoccupazione è ai massimi storici e continua a salire. Oggi ha parlato anche Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, durante un intervento a Madrid. Ha detto: l'economia di Eurolandia è uscita dalla caduta libera in cui era piombata durante la crisi e si sta stabilizzando, ma la crisi ha debilitato l'economia. Ancora Trichet, la Banca Centrale Europea dovrà riassorbire, ha detto, la liquidità immessa nel sistema creditizio per evitare di alimentare l'inflazione. Un nuovo segnale quindi che a Francoforte è in preparazione l'exit strategy dalle misure straordinarie anticrisi. parliamo di Opel. La ristrutturazione di Opel costerà circa 3,3 miliardi di euro. L'ha detto il numero uno di General Motors Europe, Nick Reilly, a Bruxelles per una riunione con la Commissione europea e i ministri europei interessati alla ristrutturazione dei marchi europei della statunitense General Motors. Poi le notizie che arrivano dall'economia italiana. Il ministro per lo sviluppo economico Scajola ha detto oggi: vareremo incentivi anche agli altri settori produttivi che sono stati più colpiti dalla crisi per far ripartire i consumi. Lo ha detto appunto Claudio Scajola in un'intervista al Tempo, riferendosi agli incentivi per l'auto, non solo per l'auto. Quindi gli incentivi saranno gradualmente a scendere, quelli per quanto riguarda il settore automobilistico, per non distorcere il mercato, ha aggiunto il ministro. E sempre in tema auto, il presidente di Fiat Luca Cordero di Montezemolo ha dichiarato: non sta alla Fiat a fare la politica industriale, ma al paese. Interpellato da Alessandra Schepisi a margine del premio Accade Domani, è tornato Montezemolo a parlare del futuro di Termini Imerese. Sentiamo. Noi siamo una squadra, la forza della Fiat è la coesione, non solo come spirito di corpo in azienda, ma come totale spirito di squadra dei vertici. Io non ho una virgola da aggiungere a quello che ha detto Sergio Marchionne. Io ho detto, Marchionne ha detto una cosa giusta che condivido, e cioè che non sta alla Fiat fare la politica industriale, ma sta al paese, dotando la politica industriale, oltre che alle scelte, delle risorse necessarie. La pausa pranzo fa male al lavoro e all'armonia, lo ha detto Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma di governo, intervistato dal Klaus Davi su YouTube. Per Rotondi quelle dedicate al pranzo sono proprio le ore più produttive, casomai, ha detto, sarebbe meglio distribuirle in modo diverso, come avviene negli altri paesi. Poi il ministro ha precisato in un'intervista a Sky: non ho fatto nessuna proposta di abolire la pausa pranzo, ha detto, ho solo detto a un giornalista che io l'ho abolita 20 anni fa. Ma sentiamo proprio la voce del ministro intervistato da Sky. Dico che se a un lavoratore diciamo abolisci la pausa pranzo e ne esci un'ora prima, ne guadagna la salute, la produttività e soprattutto la famiglia. Più tempo alla famiglia, meno tempo a un'ora che blocca l'Italia, e tuttavia mi rendo conto che questa è un'opinione, non una proposta, perché una tesi del genere, cioè l'elasticità della gestione della pausa pranzo, passa per un livello di intese che non è certo il mio, ma coinvolge i sindacati, una lunga riflessione nel mondo del lavoro, e quindi è una provocazione, ma non ha niente a che fare con l'immediatezza della proposta. È stato presentato la scorsa settimana il nuovo modello normativo per le imprese di Assosistema, il sistema industriale integrato dei servizi tessili e medici affini. In occasione dei lavori dell'Assemblea è stato tra l'altro messo in luce come il settore, che impiega attualmente 35.000 addetti, sia l'ambito ideale nel quale sperimentare il nuovo sistema di qualificazione delle imprese previsto dal decreto legge 81 del 2009 in materia di sicurezza sul lavoro. Diamo uno sguardo agli indici di borsa prima di passare al nostro tema di apertura della puntata di oggi. Per il momento tutti positivi: Francoforte più 2,35%, più 2,12%, Parigi e Londra più 2,07%, a Milano il FTSE IT All Share guadagna un 1,87%, il FTSE MIB l'1,93%, e anche a Wall Street segno più quest'oggi. Il Dow Jones è in positivo con acquisti per l'1,42%, il Nasdaq più 1,61%. E ora parliamo dei dati OCSE e della situazione delle imprese italiane. Dicevamo dati OCSE ancora una volta che fanno pensare a una ripresa per quanto riguarda l'Europa, ma soprattutto l'Italia. L'Italia che registra una crescita dello 0,6% nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al trimestre precedente, un dato superiore, dicevamo, sia alla media europea che all'area euro. Questi i dati che ci arrivano dall'Europa per quanto riguarda l'Italia, dati che ci fanno ben sperare. Ma che cosa avviene sul sul territorio. Che cosa sta avvenendo per quanto riguarda soprattutto le piccole e medie imprese che sembrano aver sofferto di più della recessione? Abbiamo in collegamento Francesco Betoni, presidente di Unioncamere Lombardia. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Ecco, Unioncamere che riunisce le 12 camere di commercio della regione, quindi abbiamo una temperatura un po' del paese, soprattutto del nord del paese, abbastanza insomma importante per quanto riguarda il tessuto della piccola e media industria. Lei conferma l'ottimismo dell'OCSE sul territorio? Che cosa si vede? Venerdì scorso, ad esempio, abbiamo visto dall'Istat alcuni dati che riguardano settembre confortanti per quanto riguarda il fatturato e gli ordinativi dell'industria, per quanto riguarda il dato congiunturale, quindi rispetto al mese precedente, mentre erano abbastanza negativi dal punto di vista dell'anno precedente rispetto a un anno prima. Glieli cito: il fatturato totale per quanto riguardava l'industria a settembre rispetto a settembre 2008 segnava un calo del 17,4%, gli ordini diminuiti del 20,4% sempre rispetto a settembre 2008, mentre i dati erano invece positivi per quanto riguardava invece il confronto con il mese precedente. Qual è la temperatura che lei registra sul territorio? È una temperatura che è ancora scottante. È pur vero che anche i nostri indicatori del terzo trimestre 2009 dicono che la caduta si è fermata e abbiamo qualche segnale labile leggerissimo positivo dalle esportazioni, però noi abbiamo fatto un'indagine su ben 5.400 aziende di tutti i settori e che cosa emerge? Emerge che sulla crisi prevale ancora incertezza e pessimismo, addirittura il 40% si dichiara incerto, dice che può succedere di tutto, il 29% non vede grandi segnali di miglioramento, l'8% addirittura sostiene che è sempre peggio, mentre il 23% avverte i primi segnali di miglioramento. Diciamo, la caduta si è fermata, però è oggettivamente troppo presto per parlare di ripresa tout court. 349-238-6666 per mandare degli sms se avete delle considerazioni o delle domande da fare. Stiamo parlando con Francesco Bettoni, presidente di Unioncamere Lombardia. Le volevo proprio chiedere, lei un mese fa diceva vedeva la svolta a fine 2009, è ancora di quest'idea? No, nel modo più assoluto, o meglio, diciamo così che abbiamo raggiunto sicuramente il fondo e più di tanto non andremo, per cui adesso vediamo questi labilissimi segnali di ripresa che arrivano comunque tutti soltanto dall'export e in particolare dalle due estreme, dal sud-est asiatico e degli Stati Uniti. Questo ci fa capire una cosa, che ormai Cina e India sono fuori da questa crisi perché marciano a ritmi di crescita mensili superiori alle due cifre. Gli Stati Uniti sono ancora un po' in sofferenza, ma indubbiamente la situazione più pesante oggi in Europa e in Europa di per sé stessa l'Italia. Per cui il mercato interno è ancora fermo, il mercato interno è ancora in grossissime difficoltà, qualche segnale arriva dall'estero. Certo, dobbiamo considerare anche che la Lombardia esporta circa un terzo del totale delle esportazioni del paese e se da qualche parte arrivano nuovi ordini, questo è sicuramente un dato positivo. Ecco, una delle preoccupazioni delle piccole imprese soprattutto è quella del credito da parte delle banche. C'è stato un incontro dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, a Gubbio. L'Associazione Bancaria Italiana dice che non c'è stato credit crunch, ma sostengono che ci sia stato addirittura un extra credito di 80 miliardi. Stando in mezzo al territorio, in mezzo alle imprese, questo non si percepisce. Noi abbiamo un'altra sensazione, siamo in contatto giornalmente con migliaia di imprese, ma il grido di dolore che sale ancora forte oggi è proprio l'accesso al credito, le difficoltà che hanno specialmente le piccole e medie imprese, specialmente le piccole, non parliamo poi delle microimprese, ad accedere al credito. È un fatto oggettivo questo, lo si nota anche dal fondo Confiducia che noi abbiamo lanciato come sistema camerale e Regione Lombardia assieme. Abbiamo messo a disposizione 37 milioni di euro attraverso i consorzi fidi e in poche settimane abbiamo già dato la disponibilità a circa 900 aziende di poter avere ulteriore credito grazie a questo sistema. Questo per dire, insomma, che il problema esiste ed è ancora forte. E il presidente della piccola industria di Confindustria, vicepresidente degli industriali Giuseppe Morandini, ha detto sempre in occasione di questo incontro a Gubbio che in questo momento le imprese, soprattutto piccole e medie, hanno due problemi. Il primo è chiudere i bilanci 2009 dopo aver subito cali di fatturato che vanno dal 20 al 50%, fra i più gravi quello che riguarda la meccanica soprattutto. Il secondo è presentare questi bilanci alle banche proprio per avere credito. È una situazione che anche lei riscontra? Non solo la riscontro, ma io ritengo, anzi noi riteniamo che sia arrivato il momento di fare una forte pressione, perché i parametri di Basilea 2 che sono stati pensati giustamente in epoca di grande crescita vengono assolutamente rivisti. Io non dico di arrivare a una sospensiva di Basilea 2, ma vista la situazione veramente difficilissima e questa enorme crisi, la prima grande crisi globalizzata, deve far ritenere che queste cose vanno affrontate con una certa elasticità e non con una rigidità tipica di certi organismi. Quindi Basilea 2 va totalmente rivista, ma in termini molto molto stringenti, non c'è tempo di aspettare, perché è vero, gli ordini stanno scemando, non ci sono, ci auguriamo che arrivino, ma nel frattempo bisogna tenerle in piedi le aziende, perché se noi togliamo ossigeno alle imprese, queste muoiono, queste chiudono entro fine anno e sarà molto difficile poi che le stesse possano riaprire. Pertanto bisogna tenere acceso questa fiammella, questa boccata di ossigeno che serve a loro di poter continuare e poter pensare quanto prima di attaccarsi e di collegarsi con questa ripresa che ci auguriamo che nei prossimi mesi sia più consistente e più importante. E l'altra grande preoccupazione ovviamente è quella del lavoro. Oggi ne ha parlato anche il ministro del welfare Maurizio Sacconi a Marghera, a margine di un convegno degli industriali di Venezia sul lavoro proprio dopo la crisi. Allora sentiamo Sacconi al microfono della nostra Silva Menetto. La ripresa c'è, è partita nel mondo, però sarà discontinua e molto selettiva. Noi dovremo affrontare un impegnativo 2010 dal punto di vista dell'accompagnamento di molte persone attraverso anche opportuni investimenti nelle competenze, nella conoscenza, verso nuovi lavori. Questo è un tema che interessa anche questo territorio, nel quale tipicamente questo accade a Porto Marghera, vecchie produzioni possono venire meno, ma nuove opportunità possono anche aprirsi se il tutto viene governato con intelligenza. Dobbiamo proteggere il reddito dei lavoratori, ma allo stesso tempo anche investire sulle loro competenze, cambiando radicalmente la politica della formazione, che è competenza delle regioni. Preoccupazione allora per i lavoratori, anche per quei lavoratori che hanno aperto una partita IVA o che vivono più in generale in forme di lavoro precario. È un tema che è stato anche al centro del convegno di oggi, se ne è parlato quindi a Marghera, ne ha parlato in particolare Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, lo ha intervistato sempre Silva Menetto. Stiamo lavorando con loro, come lavoriamo per la verità da molti anni, dal 2000. Dal 1999-2000 che noi abbiamo incrementato la nostra attenzione verso i Cococò, poi i Cococò, adesso quelli dell'IVA, perché sono parti molto deboli del mondo del lavoro, non hanno luoghi dove riunirsi in tanti, sono qui uno, qui un altro e un altro ancora dall'altra parte, ecco perché abbiamo garantito più attenzione, perché ci vuole più lavoro per loro, ma non farsi carico di loro significa non essere completi nella rappresentanza del mondo lavoro. Ecco perché in questi giorni stiamo chiedendo al governo, al ministro del lavoro in particolare, di assestare gli ammortizzatori, soprattutto guardando ai cosiddetti più flessibili atipici. Loro, per esempio, faccio un caso, possono essere disoccupati, però non riescono a mettere i vari periodi insieme perché ora interinale, ora cococò, ora partita IVA, ora non so che cos'altro, e non c'è possibilità di unificare i periodi di lavoro. Noi riteniamo, faccio un esempio, di mettere insieme tutti questi periodi in modo tale da metterli nelle stesse condizioni degli altri lavoratori, perché non si è precari quando si è flessibili, si è precari quando la flessibilità è meno pagata di chi flessibile non è e quando non ci sono sostegni a favore loro. Francesco Bettone, ha sentito sia il ministro Sacconi che Bonanni, che prevede, auspica la nascita di un sindacato per le partite IVA e chi vive in generale la situazione di precario? Beh, indubbiamente è un percorso sicuramente virtuoso, non facile da realizzarsi, anche perché questi soggetti, individui che dovrebbero poi diventare partita IVA e quindi operare in proprio, se capito bene, comunque hanno bisogno di credito, hanno bisogno di avere un accesso significativo, comunque importante, perché la prima attività, la fase di start-up, è quella più delicata, quella più difficile, quella più complessa. Quindi se quello deve essere un progetto, deve essere a 360 gradi, e ciò significa anche aprire strade privilegiate per aiutare questi nuovi soggetti, queste nuove partite IVA a inserirsi in un mercato. Quale mercato? Visto e considerato che oggi il sistema delle piccole e microimprese è proprio quello più in difficoltà. Sì, è una ottima idea, una strategia, però bisogna poi collocarla nel contesto vero, reale, per non creare delle illusioni, delle facili delusioni, insomma, ecco. Grazie a Francesco Bettoni, presidente di Union Camere Lombardia, per essere stato con noi. Subito dopo la pausa invece parleremo di borsa, la chiusura, ve lo anticipo, è positiva. Bentornati a Focus Economia e parliamo di mercati. Hanno ampliato il rialzo i mercati in Europa dopo il dato americano sulle vendite di abitazioni a ottobre, cresciute inaspettatamente del 10%, e quindi gli indici americani positivi, il Nasdaq più 1,57%, il Dow Jones in rialzo dell'1,43%, rialzi dell'ordine del 2,25% in Europa. E per quanto riguarda Milano, il FTSE IT All Share guadagna l'1,99, il FTSE MIB l'1,98. Eleonora Micheli di Radio Corrisole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Quindi è stato questo dato americano a dare un po' di fiato a un mercato che in realtà era già positivo, però è andato ancora meglio nelle ultime ore. Esattamente, infatti il dato è risultato superiore alle attese e quindi ha incoraggiato assolutamente tutti gli ordini in acquisto. Comunque anche il dato, peraltro, questa mattina sull'Eurozona, in particolare l'indice flash composito della produzione di novembre, è salito per il quarto mese consecutivo ed è stato quindi di conforto per gli investitori. Eleonora, a Piazza Affari in particolare hanno rimbalzato i titoli che avevano perso nei giorni scorsi, molto bene il Banco Popolare con un guadagno del 5,63%. Sì, infatti sono andate bene tutte le azioni delle banche, non solo del resto a Milano ma anche in Europa. Il sottoindice Stoxx 100 del vecchio continente ha registrato un rialzo del 2,85%, uno dei migliori. E ovviamente si è andate a comprare titoli che avevano perso maggiormente la scorsa settimana, come hai detto tu, il Banco Popolare, ma anche MPS più 4%. Unicredit più 3,4%, vedo tra le banche positive anche dunque Popolare di Milano più 1,63%, Intesa più 1,45%. Esatto, semmai la Popolare di Milano è andata un po' peggio rispetto agli altri titoli, perché si continua a temere un possibile slittamento dei termini di trattativa con Crédit Mutuel per l'alleanza sulla banca assurance. Infatti è emerso nei giorni scorsi che il termine per decidere se chiudere o meno l'alleanza è stato posticipato a fine anno, e peraltro non è nemmeno chiaro se poi venga rinnovato. Intanto comunque anche il Sole 24 24 ore di ieri ha indicato nella lettera all'investitore che la banca dovrebbe chiudere il 2009 mettendo a punto un trend di crescita già visto nei primi 9 mesi, e in particolare i proventi operativi dovrebbero salire del 14%. Tra gli altri titoli positivi del paniere principale, Mediaset ha guadagnato il 4,76%, mi pare in questo caso sulla scia di 2 giudizi positivi di banche di investimento. In particolare Mediaset è dalla scorsa settimana che non appena la borsa sale alza la testa, magari facendo meglio del mercato. La scorsa settimana i vertici dell'azienda hanno fornito indicazioni positive soprattutto per il 2010 sulla raccolta pubblicitaria, e quindi questo è stato giudicato e stato apprezzato positivamente da Piazza Affari. Oggi in particolare poi ci sono stati gli analisti di Bernstein che hanno rivisto al rialzo la valutazione della società, pur continuando però a raccomandare cautela e indicando peraltro un target di prezzo più basso dei 5 euro ai quali hanno chiuso le azioni. D'altra parte si può dire che la banca d'affari ha un po' riacceso l'attenzione su Mediaset perché ha fatto fare una ricerca di mercato dalla quale è emerso che Mediaset sta rosicchiando quote di mercato a Sky Italia sul settore delle TV a pagamento. Quindi questo ha fatto molto parlare a Piazza Affari e il risultato è stato che i titoli quindi sono saliti e hanno fatto meglio del mercato. Attenzione anche oggi su Eni, più 2,37%, l'abbiamo detto anche noi in apertura, la società ha acquisito parte di un giacimento in Uganda. Esatto, infatti ha rilevato il 50% di 2 blocchi in Uganda da un gruppo britannico che si chiama Heritage per 1,35 miliardi di dollari. Quindi questo è stato apprezzato dal mercato e comunque oggi è andato bene un po' tutto il comparto petrolifero. In Europa il sottoindice Stoxx 600 ha fatto più 2%. Per quanto riguarda Fiat, ci chiede anche un ascoltatore, il titolo è andato bene, più 3,5%, mi sembra sulla scia di tutto il comparto in Europa. Esatto, oggi hanno recuperato tutte le azioni auto europee, del resto erano state vendute a piene mani soprattutto nelle ultime sedute della scorsa settimana. Peraltro diciamo che oggi Fiat aveva anche il vento non a favore, infatti Fitch ha emesso un outlook negativo sull'azienda visto che ha puntato l'indice sull'incertezza del settore dei camion e dei macchinari per l'agricoltura, cioè in particolare sulle controllate Iveco e CNH. E poi anche gli analisti del Credit Suisse hanno rimosso le azioni del Lingotto dai titoli più consigliati per l'acquisto in tutta Europa. D'altra parte le Fiat hanno recuperato, del resto avevano perso molto, continuano però a stare sotto la soglia degli 11 euro ai quali si attestavano fino a poche sedute fa. Impregilo ha guadagnato il 4,15 dopo la notizia che il Tribunale di Firenze ha sospeso il pagamento di condanna di 150 milioni di euro per lavori dell'alta velocità. Esatto, le azioni erano già positive ma hanno assolutamente allungato il passo dopo questa notizia. In appello infatti è stata sospesa la decisione del pagamento della provvisionale da 150 milioni di euro che è stata imposta al consorzio Cavet di cui fa parte la stessa Impregilo. Per quanto riguarda invece Telecom, più 1,64%? Sì, Telecom che si è mossa facendo leggermente peggio del mercato. D'altra parte l'attenzione degli investitori rimane alta. La prossima settimana, esattamente il 2 dicembre, si terrà il consiglio di amministrazione dell'azienda e proprio oggi il presidente Gabriele Galateri ha precisato che sarà un consiglio per fare il punto sulle strategie del gruppo sia in Italia che all'estero. Invece per aspettare un aggiornamento del piano industriale occorrerà appunto attendere fino al prossimo anno, fino al febbraio 2010. Vedo invariata Terna, la peggiore di oggi sul listino principale, anche se appunto non in negativo. Sì, come tutti i titoli che sono considerati difensivi, hanno retto meglio la scorsa settimana nelle giornate di calo, e quindi invece nelle sedute di recupero sono quelle che vengono, diciamo, un po' lasciate in ombra dagli investitori. Dicevi bene i bancari, però UbiBanca più 0,6, Mediobanca più 1,2%, quindi fra le banche forse le più deboli. Sì, Ubi probabilmente perché aveva fatto meglio la scorsa settimana rispetto ad altri titoli, quindi anche il rimbalzo è stato più contenuto. Cosa ci puoi dire fra i titoli minori? Ci sono dei casi che vanno segnalati? Assolutamente sì, nelle ultime tre sedute della scorsa settimana erano letteralmente volate Mediterranea Acque e Acque Potabili. Acque Potabili, ad esempio, in tre sedute avevano messo a segno un progresso del 97%, e questo a seguito del fatto che la scorsa settimana è stata approvata la riforma sui servizi pubblici locali, in particolare anche sulle acque. Si è subito, diciamo, scatenata la speculazione, si è iniziato a ipotizzare che le due società quotate in borsa possano vedere l'ingresso di investitori esteri. Si è fatto il nome della francese Veolia e anche della francese Suez. D'altra parte, oggi i titoli, dopo la corsa della scorsa settimana, hanno registrato la pressione dei realizzi, e infatti Acque Potabili ha perso il 19,6% e Mediterranea Acque il 15,24%. Grazie Eleonora Micheli di Radio Corriere Il Sole 24 Ore per questo approfondimento sui mercati finanziari di oggi. Bentornati a Focus Economia. 349-238-6666 per scriverci. Facciamo questa chiusura della prima parte di Focus Economia, e come vi preannunciavamo parleremo dei mutui americani. Perché? Beh, perché il New York Times ha raccontato una storia che riguarda dei coniugi, una coppia della California. Si chiamano Steven e Marisela Alia ed hanno una casa in California per la quale hanno stipulato un mutuo da $440,000. Cos'è accaduto? È accaduto che si sono visti recapitare negli ultimi tempi una lettera di un intermediario che ha detto di aver ricevuto uno sconto sul loro mutuo dalla banca. Lo sconto farebbe passare il mutuo da $440,000 a $314,000. E quindi, loro sono stati ovviamente molto felici di tutto questo. Ma chi ha finanziato il nuovo mutuo a un tasso più vantaggioso? C'è una copertura da parte della Federal Home Mortgage Administration, che è un'agenzia federale che garantisce i mutui residenziali, e insomma tutto bene. Gli osservatori ovviamente hanno dei sospetti che qualcosa non torni. D'altra parte non si tratta di fondi benefattori esattamente, e la storia ci insegna che con questi mutui, con questi rischi di insolvenze, si può veramente arrivare a dei problemi. Siamo partiti circa un anno e mezzo fa a parlare di crisi proprio dai mutui, in quel caso dai mutui subprime. Abbiamo in collegamento il professor Alberto Bisin, economista della New York University ed editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, il meccanismo è abbastanza difficile. Lei che sta negli Stati Uniti, non oggi, mi diceva, è a Madrid, ma normalmente è negli Stati Uniti, è un osservatore molto attento di ciò che vede, ed è un economista. Qual è il meccanismo che preoccupa un po' gli osservatori su questa moda dei fondi di investimento che utilizzano questi intermediari? Ah, dunque, il timore di questo tipo di operazioni è sempre dovuto al fatto che alla fine quello che succede è si cambia la struttura del mutuo per generare dei mutui che sono assicurati essenzialmente dal governo americano attraverso società come questa agenzia federale e Freddie Mac, esatto. Quindi ovviamente il fatto che questi mutui passano da essenzialmente essere fatti da una banca a essere fatti dal governo genera dei timori. Io credo però che i timori siano un pochino mal riposti, nel senso che il modo in cui questo meccanismo funziona è che diciamo, l'organizzazione federale FHA o comunque le società del governo, quello che fanno è definiscono delle caratteristiche del mutuo sotto le quali esse sono disposte ad assicurarlo. In generale, sono caratteristiche generali. Quindi quello che succede è che questi mutui in partenza non soddisfano queste caratteristiche. Sono detenuti da banche che non hanno tempo e modo, come dire, di seguire questi mutui, anche perché spesso hanno bisogno di denaro fresco, liquido. Quindi gli intermediari, quello che gli intermediari fanno è ristrutturano il mutuo, facendo in questo modo anche appunto un regalo ai debitori, diciamo, ristrutturano il mutuo per renderlo compatibile con le caratteristiche che ne garantiscano l'assicurazione da parte del governo e poi vendono il mutuo essenzialmente al governo. In questo senso, mi scusi, sì, mi dica. No, non volevo interromperla. Lei diceva però che appunto vendono il mutuo al governo, quindi nel caso in cui la famiglia Alva, che avevamo citato, altre famiglie non riescano a pagare, sarà il contribuente americano a pagare? Certo, nel caso non riescano a pagare sarà il contribuente americano a pagare. Nello stesso tempo però quello che la ragione per cui il governo assicura questi mutui è proprio per fare in modo che queste famiglie non debbano, come dire, lasciare, insomma, non debbano lasciare la casa e le famiglie, diciamo, qui la sostituzione del mutuo è necessaria perché questi sono mutui che sono stati fatti quando il valore della casa, delle case erano molto più alti e quindi queste sono famiglie che se dovessero ripagare il mutuo interamente non avrebbero interesse a farlo, mentre diciamo con lo sconto che avviene attraverso questo meccanismo possono essere interessate a mantenere la casa e a ripagare il mutuo. Quindi lei non parlerebbe di rischi? No, in generale no. Diciamo il rischio è quello che bisogna vedere è come diciamo quali sono le caratteristiche di questi mutui che li rendono assicurabili da parte del governo. Diciamo se il meccanismo dal punto di vista del governo è da quel punto di vista è stato ben fatto, no, non parlerei di rischi. È vero, però è anche vero che diciamo Fannie Mae e Freddie Mac hanno assicurato 2 anni fa cose che non avrebbero dovuto assicurare. Mutui che non avrebbero dovuto assicurare, e questo è stato anche un pochino la base di tutto il problema. Quindi credo che il punto cruciale da capire è quanto generoso sia il governo in questo meccanismo. Ha sentito oggi il dato sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti ad ottobre, un rialzo del 10,1%, è il livello più alto da febbraio 2007 e migliore rispetto alle previsioni? Il mercato è crollato per tanto tempo, i prezzi sono scesi parecchio, quindi diciamo per quanto sì, appunto, sia meglio delle previsioni, però qualcosa ci si aspettava in quella direzione. Quindi credo che quindi era atteso. Buona cosa, insomma. È un segnale che il mercato sta un pochino ripartendo. Alla riunione del G20 di Pittsburgh, parlo di settembre scorso, ci sono state delle discussioni a proposito della regolamentazione dei mercati finanziari. Poi è stato raggiunto un accordo per il coordinamento delle forme di intervento degli organi di vigilanza. Secondo lei è stato fatto abbastanza? No, è stato fatto molto poco, io credo. Ci sono delle linee generali. Ma si sta ancora discutendo tantissimo, si sta ancora cercando di capire quanto potere di intervento contro il rischio sistemico sarà dato alla Federal Reserve, quanto invece ad altre società, ad altre agenzie federali. La mia impressione è che si sia fatto relativamente poco per quanto riguarda i mercati finanziari. Io credo che l'amministrazione Obama abbia dire altre priorità in questo momento, quindi abbiamo altre priorità. Abbiamo capito. Grazie professore Alberto Bisin, economista della New York University, per essere stato con noi. Noi ci sentiamo tra poco. Ascoltate Rocchetta aiuta ad eliminare scorie e liquidi in eccesso. Lo attesta la ricerca scientifica. Tutti gli studi sono pubblicati su acquedellasalute.it. Ecco perché Rocchetta è acqua della salute. Adesso libera la mente e inizia a camminare verso la tua Peugeot. Ora siediti al posto di guida e parti. Tra poco tu e la tua Peugeot vi sentirete bene come non mai, perché state per entrare in un centro riparazione Peugeot. Spegni lo stress e accendi il relax. Con il servizio Winter Checkup, le officine e i centri riparazione Peugeot ti garantiscono il rabbocco dei liquidi e 5 controlli a soli 19 euro. E puoi vincere un weekend benessere per due persone. Regolamento completo su Peugeot.it. Scade il 31/01/2010. Come alternativa ai bot, migliaia di risparmiatori hanno scelto Arca Cedola. Allora faccio Arca Cedola 2, la cedola che stacchi ogni 6 mesi o un anno. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Offerta limitata, info su arcaonline.it. Prima dell'adesione leggere il prospetto di offerta. Ecco entrare in campo i campioni d'inverno, la squadra Winter Pirelli. La formazione ancora imbattuta, nonostante abbia giocato sui terreni più insidiosi, schiera il consueto modulo con due attaccanti abilissimi nel controllo e una coppia di difensori di indiscutibile affidabilità. A voi studio! Con la sicurezza dei pneumatici invernali Pirelli, anche tu puoi affrontare l'inverno da campione. Acquista 4 pneumatici invernali Pirelli e indovina la squadra che vincerà il girone d'andata di Serie A e potrai vincere 6 mesi di calcio Mediaset Premium. Regolamento su Pirelli.it. Hai visto? Ho anch'io il braccio destro rosso. Bravo, hai scelto Impresa Semplice di Telecom Italia. Eh sì, il mio braccio destro nel lavoro, per la telefonia fissa e mobile. E da oggi c'è Linea Voce Più. Si aderisce entro il 31 dicembre per 6 mesi ai fax e chiamate nazionali illimitate verso numeri fissi a soli 25 euro al mese invece di 30, canone compreso. E l'assistenza è entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione. Vai su impresasemplice.it o chiama l'803-191. Non perdere Swing Collection, l'esclusiva raccolta di CD dedicata ai grandi della musica americana. Swing Collection, i più grandi successi di interpreti indimenticabili, da Frank Sinatra a Benny Goodman, da Dean Martin a Judy Garland. Il primo numero è in edicola, soli 4,99 euro, da Hobby Work. Mamma, io vado a giocare a calcio. Ok, va bene, ma non fare tardi. Ci vediamo tra 2 o 3 mesi al girone di ritorno. Se vuoi chiamare, ricordati il prefisso della Spagna. Ciao. C'è chi nasce già un passo avanti, come Volkswagen Polo, un nuovo standard nella sua categoria. Consumi ridotti, design innovativo e sicurezza da 5 stelle Euro NCAP. Nuova Polo, pronta per un nuovo passo avanti. Permettete una parola? Eccola qui, italianità. Dice sì, vabbè, ma vieni al punto. Ma io ci sono già al punto, è il punto dei domini.it. I domini.it sono la scelta naturale per chi lavora con il Made in Italy, perché danno subito alla vostra azienda una riconoscibilità tutta italiana. In pratica sono il simbolo dell'Italia nel mondo della rete. Permettete un'ultima parola? Istantaneità, perché un dominio.it oggi si registra anche in tempo reale su internet. Per saperne di più, www.registro.it. C'è bisogno di dirlo? In Nicaragua, per troppi bambini, questa è l'unica casa. E in strada sono vittime del lavoro minorile e dello sfruttamento sessuale. GVC li aiuta a lasciare la strada e a tornare a scuola. Manda un SMS al 48582. Fino al 30 novembre dona un euro da cellulare personale TIM, Vodafone e Wind o 2 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia. Difendi dallo sfruttamento i bambini del Nicaragua. Manda ora un SMS al 48582. Ok, sei in gamba, però quanta energia per dare sempre il massimo. Lavoro, lavoro, stress, stress. Forse hai bisogno di aiuto. Chiama 870 70 70. Risponde Tecnogym, che ti propone Spazio Forma, il tapirulan professionale per la casa richiudibile in meno di un metro quadro. Investi sulla tua salute. Chiama 870 70 70 o visita tecnogym.com. Troverai soluzioni personalizzate per il tuo benessere. Tecnogym, the wellness company. 18 minuti e 27 secondi, bentornati a Focus Economia. Parliamo in questa parte di puntata della visita del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in Medio Oriente dopo l'Arabia Saudita e il vertice con il re dell'Arabia Saudita. Berlusconi è arrivato in Qatar dove ha incontrato il primo ministro. L'intenzione palese è proprio quella di creare una sinergia con questo paese, con il quale c'è già uno scambio scambio piuttosto intenso. I rapporti commerciali con il Qatar hanno subito un calo nel 2008 a causa della crisi. Tuttavia la bilancia degli scambi commerciali con il paese del Golfo è al momento a favore dell'Italia. Le esportazioni rappresentano il 95% dell'interscambio complessivo. E il Premier vorrebbe portare più imprese italiane in questo paese. Negli ultimi anni hanno ottenuto commesse le imprese italiane per oltre 7 miliardi di dollari. Ora, dopo l'incontro col primo ministro, in attesa dell'incontro con l'Emiro, il Premier si dice entusiasta dei rapporti con questo paese che fa 833 mila abitanti, il PIL ammonta 102 miliardi di dollari e il PIL pro capite a 90 mila dollari, tra i più alti del mondo. Gran parte delle ricchezze di questo paese sono legate al petrolio, soprattutto al gas. Il sottosuolo del Qatar contiene infatti il 15% delle riserve mondiali di gas naturale, una quota che fa del paese il terzo al mondo per disponibilità di gas dopo Russia e Iran. E il gas del Qatar soddisfa il 10% dei bisogni italiani. L'Italia è già presente, lo dicevamo, tra le attività che ci sono, quelle anche della società Prysmian, che ha costruito e ammodernato una rete elettrica in Qatar, l'ha collegata anche con i paesi confinanti. Giorgia Scaturro ha intervistato per noi Roberto Comellini di Prysmian, che dirige il progetto di interconnessione. L'interconnessione tra l'Arabia Saudita e il Bahrain è il progetto più importante qui in Medio Oriente. Oltre a questo abbiamo anche un progetto in corso qui in Qatar, che è il Doha Bay Project, è parte dello sviluppo della rete elettrica del Qatar, in particolare della città di Doha. Abbiamo anche in corso di altri progetti qui in Qatar per un totale di circa 300 milioni di euro di lavoro, quindi questo è un paese in cui stiamo operando massicciamente. Sono delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo della regione. Qui la domanda di energia elettrica sta crescendo a dei ritmi che sono circa doppi di quelli che c'erano in Europa negli anni del boom, quindi non solo stanno investendo in infrastrutture di produzione di energia elettrica ma anche di trasmissione, che è appunto il settore in cui noi operiamo. La parte in mare è lunga 7 chilometri. Sono due circuiti, tre cavi per circuito, poi ci sono due tratti terrestri di 1,5 km circa ciascuno, che interconnettono il cavo sottomarino a sottostazioni esistenti. Noi non operiamo sulle sottostazioni, ma abbiamo appunto in corso diversi progetti anche sulla rete terrestre, quindi stiamo partecipando massicciamente allo sviluppo della rete elettrica locale del Qatar. Il Premier Berlusconi ha auspicato una visita degli imprenditori in Qatar perché dice è un paese dinamico, qui c'è una dinamicità incredibile, ha detto Silvio Berlusconi dopo l'incontro con il primo ministro. Il Premier ha sottolineato di aver riscontrato grande amicizia, grande apertura ai nostri investimenti, ai loro investimenti in Italia. Lo dicevamo, grandi risorse di materie prime in Qatar, che ha 400 anni di riserve di gas garantite e già scoperte. Non è solo l'Italia che si sta muovendo intensamente in questo paese cercando di stringere degli accordi. Anche il presidente francese Sarkozy è stato in quest'area nei giorni scorsi, e invece i tedeschi, oltre che fare delle visite, hanno stretto già degli accordi. Ad esempio sul Golf Times cappeggia in prima pagina l'accordo tra l'Emirato e la Deutsche Bahn per la realizzazione delle ferrovie del Qatar, un contratto da 25 miliardi di dollari. Staremo a vedere. Quindi sempre dal Qatar si è introdotto un tema invece di casa nostra. Berlusconi, che appunto parlava con l'Emiro, con il primo ministro, di investimenti, è stato portato dai giornalisti a occuparsi anche di una polemica tutta italiana che riguarda l'intervista che è stata rilasciata dal ministro della funzione pubblica Renato Brunetta al Corriere della Sera ieri, nella quale il ministro auspicava una politica economica diversa da parte del ministro dell'economia Tremonti. Ha detto Brunetta: il ministro Tremonti esercita un potere di veto sulle iniziative di tutti i ministri, un blocco cieco, cupo, conservatore, indistinto. da ieri si discute di questa intervista. Prima c'è stata da parte di Bonaiuti una nota che diceva la linea di Tremonti è ispirata da Berlusconi, e oggi proprio dal Qatar, da Doha, il premier Berlusconi è intervenuto in merito a questo scontro tra ministri, e sentite cosa ha detto. Ma non c'è nulla di meno che quieto. C'è un'esternazione di un ministro e abbiamo dato una risposta, ma che rimane nell'ambito di una dialettica che meglio sarebbe se fosse soltanto interna. E insomma, da Doha, lontano dall'Italia, da Doha dove il primo ministro riscontrava un dinamismo che da noi non trova, il premier è stato portato invece a discutere proprio di questo scontro tutto interno. Bentornati a Focus Economia, parlavamo quindi di queste diverse visioni della politica economica del governo, quella improntata al criterio della disciplina di bilancio, del rigore da parte del ministro dell'economia Tremonti, e invece il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, che chiede un rilancio delle riforme. In un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che poi anche gli altri ministri la pensano come lui. In realtà oggi ci sono state delle prese di distanza da parte del ministro del welfare Maurizio Sacconi. Oggi a Mestre ha detto: senza disciplina di bilancio salta il sistema, lo ha detto a margine di un convegno della CISL, riferendosi alla finanziaria, indirettamente anche alle polemiche di ieri tra i due ministri. A difendere la linea del ministro Tremonti c'è stato anche il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli, sentiamolo. Io sto dalla parte della linea di governo che abbiamo seguito fino ad oggi. Noi per 20 anni siamo stati la pecora nera in Europa dal punto di vista economico, grazie all'allegra politica della Prima Repubblica, che ci ha dato il più alto debito pubblico europeo e il terzo al mondo. Per la prima volta, con la linea di questo governo del ministro Tremonti, siamo usciti dai 13 peggiori, siamo a metà classifica, e addirittura Tremonti si è classificato al 5° posto dei ministri economici. Quindi io credo che questa politica abbia pagato, una politica anche del rigore, ma è quella che più ha premiato in un momento di crisi. Questo era il ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli. Abbiamo in collegamento il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buonasera. Buonasera. Allora, Dino, questo diciamo scontro sotto traccia, perché poi oggi c'è stata la voce di Berlusconi che ha detto che la dialettica sarebbe meglio interna, però si ravvedono due filosofie, quella appunto del rigore e quella del rilancio delle riforme, anche nella discussione che riguarda la finanziaria. Ma sì, direi di sì, due linee che per la verità erano già emerse chiaramente nelle scorse settimane, quando si è aperto il caso proprio attorno ai poteri reali di cui dispone il Ministro dell'Economia. In realtà, secondo me, più che uno scontro personale, io individuo dietro queste due linee la necessità che in qualche modo il governo, dopo aver impostato una strategia di contenimento dei conti tenendo conto della crisi globale, adesso che si cominciano a intravedere spiragli di uscita dal tunnel, come e in che modo e con quali risorse affrontare una fase successiva, che dovrebbe essere appunto quella del rilancio dell'economia. E qui le due linee sono sostanzialmente queste, cioè Tremonti, ma credo che al posto suo un qualsiasi altro ministro dell'economia farebbe altrettanto, vigila soprattutto con l'occhio rivolto al nostro ingente debito pubblico e al fatto che se poi noi deragliamo in qualche modo dal percorso di contenimento del deficit abbiamo il giudizio severo dei mercati che ci potrebbero penalizzare, e con ciò crescerebbe la spesa per interessi, e oltre ad avere una procedura del disavanzo eccessivo aperta da Bruxelles. È vero, siamo in compagnia di mezza Europa, però comunque è sempre un problema, dobbiamo rientrare entro un arco di tempo di 3 anni. E dall'altro canto c'è la linea di molti del governo che dicono: d'accordo, finora il rigore ha pagato, ma adesso ci vuole un cambio di marcia. Sì. Penso che se ne esca cercando di individuare risorse aggiuntive, perché domani mattina in finanziaria si comincia a discutere, entrare nel vivo, ci sarà una riunione proprio con il ministro Tremonti da parte della maggioranza. Appunto le richieste che sono state avanzate finora prefigurano una sorta di manovra bis, si parla di 8-10 miliardi. Allora è chiaro che da questo punto di vista le risorse non ci sono, allora o si trovano risorse aggiuntive oppure bisognerà fare scelte diverse, perché con lo scudo fiscale si copre sì e no la metà di queste spese. E comunque sarà chiaro quanto sarà il gettito dello scudo non prima della seconda metà di dicembre? La scadenza al momento è il 15 dicembre, il governo, lo ricordo, ha già impegnato 3,8 miliardi dello scudo per finanziare lo sconto di 20 punti che ha fatto sull'acconto IRPEF di fine novembre. È vero che si tratta soltanto di un differimento, perché poi il versamento andrà allineato, per così dire, a giugno. Però comunque almeno 3,8 miliardi li prevede ed è probabile, almeno questo si dice alla Camera in queste ore, che si possa determinare uno slittamento dei termini per accedere allo scudo, si parla del 15 aprile che poi era la scadenza originaria. Comunque in sostanza dai 3,8 ai 5 miliardi, questo è il gettito atteso. È un gettito non da poco, però non basta. Ecco, questo è il problema di fondo. Gli altri nodi sono quelli dell'IRAP, innanzitutto, e l'introduzione della cedolare secca sugli affitti. Sì, l'IRAP era uno dei motivi che aveva determinato nelle settimane scorse una certa polemica all'interno del governo, perché era stato il Presidente del Consiglio Berlusconi ad annunciare che era intenzione del governo ridurre l'IRAP fino alla sua abolizione, e Tremonti aveva detto non si può fare perché l'IRAP è un'imposta che mobilita risorse per 38 miliardi e serve a finanziare la sanità, dunque un'ipotesi di questo tipo non era perseguibile. Però al Senato la maggioranza si era in qualche modo ritrovata su un mini taglio dell'IRAP, ma nemmeno quello è stato fatto, cioè si pensava di eliminare dalla base imponibile le perdite, ecco, questo era un primo elemento, non se n'è fatto nulla, quindi ora la Camera si ripropone il problema. La stessa cosa per la cedolare secca del 20% sugli affitti, che è una misura molto importante, sarebbe anche popolare, però costa, quindi ecco, qui ritorniamo al problema di partenza. Domani mattina forse sarà più chiaro se e quanto il ministro Tremonti è disposto a mettere sul piatto per far fronte almeno a una parte di queste richieste. Per il momento però sembrano tutti allineati sulla linea del rigore di Tremonti. Ma direi che la linea del rigore è sicuramente da difendere. Il problema è però far sì che si accompagni la ripresa con misure in grado di renderla più stabile e duratura, perché altrimenti rischiamo di non agganciarla alla ripresa. Ricordo che noi prima ancora della crisi avevamo tassi di crescita che erano stabilmente inferiori di un punto e mezzo alla media europea, quindi ecco, si tratta di dare, in questo credo che il ministro Brunetta abbia una qualche ragione, si tratta di dare anche un impulso alla politica economica che non sia più difensiva e basta, ma che proponga. Per fare questo però occorrono riforme, occorrono soldi, occorrono risorse fresche, ed è appunto il compito non facile che attende il governo e la maggioranza nelle prossime settimane. Il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, in un'intervista di oggi, ha ventilato l'idea di incentivi anche per altri settori produttivi oltre all'auto. Anche questo, anche per questo bisognerà trovare le risorse, ma potrebbe essere un modo di un rilancio per la ripresa. Senz'altro, se ne parla da tempo. Scajola ha messo a punto un pacchetto di proposte che valgono circa 1,5 miliardi, quindi non è una cosa da poco, tenendo però conto che una parte di questi interventi potrebbe essere inserito non in finanziaria, ma far parte di un decreto di cui ormai si parla con insistenza, che verrebbe varato alla fine dell'anno, decreto che potrebbe prevedere alcune proroghe importanti. Parlavamo prima dello scudo fiscale, dentro c'è pure questa, la proroga della rottamazione cosiddetta, che potrebbe essere estesa oltre che alle automobili, quindi anche agli elettrodomestici e quant'altro, e quindi anche da questo punto di vista una spinta all'economia. Però anche in questo caso si tratta di individuare risorse che al momento, ripeto, non sembrano esserci. Quindi andremo al mille proroghe? Beh, quello sicuramente ci sarà un decreto di fine anno, perché comunque ci sono delle scadenze che molto probabilmente andranno prorogate, ma credo che sia decisivo l'incontro di domani e quel che poi emergerà in commissione bilancio nelle prossime 2 settimane, ricordando che poi ci sarà l'aula, quindi la discussione sostanzialmente sugli emendamenti avverrà tra domani e la metà di dicembre, e poi la partita è chiusa, perché il Senato, che approverà la finanziaria in terza lettura, non farà altro che ratificare le scelte del Senato, quindi davanti ci sono 2 settimane per decidere, e poi se ne parlerà a fine anno con mille proroghe. Grazie a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, e io ringrazio anche per il lavoro in redazione Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, in regia Valeria Bernardi. Da Valentina Furlanetto è tutto, a domani.